Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Stasera la voce sembra un po' troppo squillante, adesso lo devo sistemare. Ogni volta i parametri del microfono possono modificarsi non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal posizionamento, e dato che stasera ho visto che è stato un po' spostato sia il filtro che insomma la giraffa, un po' di tutto, dunque ogni volta bisogna ricalibrare. Io lo posso praticamente sapere in tempo reale quando vado praticamente in diretta, ma comunque bando a questi convenevoli. Una buona serata, una buona notte da Elisio Scarpa e da 451 Intersezioni, trasmissione che va in onda sempre su Radio Città Fujiko ogni giovedì notte dalle 24 fino all'una, una e mezza circa. Ultimamente abbiamo direi sforato sempre l'ora e abbiamo raggiunto l'ora e mezza circa per divertimento, perché oggettivamente tante volte quando si trova diciamo la corrente giusta anche me medesimo si fonde dentro il flusso radiofonico, dunque si diverte anche a mandare di più di quello che aveva programmato, dunque si fa anche un lavoro di percorso sonoro in realtà in tempo reale, non solo quello che è stato progettato precedentemente. 451 Intersezioni che stasera va in onda in solitaria, dato che il caro amico e compagno facente parte del network 451 che trasmette la trasmissione 451 Frammenti Sonori ogni mercoledì dalle 23 all'una, in questa settimana è mancato dato che è in quel di Londra, dunque lo saluto, chissà mai che sia collegato via streaming col web, ma non credo proprio, perché credo che voglio utilizzare le serate di Londra anche per girare e visitare, dunque una città carica di musiche sperimentali anche, che attraversano spesso 451 Frammenti Sonori, ma anche la puntata di 451 Intersezione, cioè quella del giovedì notte, quella di stasera, ma non solo musica sperimentale, anche dance, che stasera per certi versi introdurremo in maniera anche abbastanza anomala all'interno di 451 Intersezioni, che di regola si occupa soprattutto di musica piuttosto tostarella all'ascolto, diciamo, basico o generale. Noi ci muoviamo di solito nella programmazione musicale tra ambient, contemporanea, musica contemporanea, elettronica sperimentale, jazz sperimentale in tutti i suoi linguaggi, ma in alcune occasioni, anche in passato, qualche puntata legata a una certa dance intelligente, una dance più elaborata e sperimentale l'abbiamo fatta, e stasera faremo proprio questo. Ma chiaramente non possiamo dimenticarci, come sempre nello spazio di 451 Intersezioni, all'inizio della puntata fare un collegamento diciamo anche con la realtà politica e sociale sugli avvenimenti che hanno attraversato questa ultima settimana. In queste ultime due abbiamo parlato, ovviamente ci siamo concentrati su quello che è successo legato alle bombe e agli attentati di Parigi, ma anche bombardamenti in Siria, le altre stragi nel resto del mondo, lo scontro tra questi due bei titani nazisti o neonazisti, tra ISIS e ovviamente capitalismo occidentale, che sta approntando tutte le sue armi per controllare, manipolare e terrorizzare anche la stessa popolazione, le classi subalterne, i nostri bei paesi così liberi e così democratici. Mentre questa settimana, diciamo, ma soprattutto in questi ultimi due giorni, l'argomento che sta tenendo banco i media di regime e anche quelli che cercano di far credere di essere alternative al regime ma stanno dentro la stessa minestra di mainstream è quello riguardante il crack, questo crollo di queste quattro banche popolari in Italia, in particolare la Banca dell'Etruria, che un po' è ovviamente nell'occhio del ciclone, anche perché collegata degli interessi anche per alcuni soggetti legati al governo e al PD in particolare. Ecco, tutto questo adesso viene affrontato. In realtà qualcuno aveva già scritto, soprattutto Compagni e alcuni attivisti che si muovevano nelle zone che erano ovviamente, che sono state colpite da questa situazione abbastanza pesante di crollo di queste banche, che poi sono state salvate dal governo attraverso un'operazione abbastanza allucinante, colpendo ovviamente i piccoli risparmiatori che avevano sottoscritto in buona fede, e ovviamente gran parte, si è visto, erano persone anziane che si erano affidate alle banche di sottoscrivere obbligazioni cosiddette subordinate, che poi in realtà sono diventate carta straccia. Dunque gente che aveva lasciato, aveva messo un piccolo gruzzoletto dopo anni e anni di lavoro, dunque non certo speculatori o esperti della finanza, che si vedono sfumare nel nulla. E in questa operazione, appunto, dicevo, Compagni, ma anche alcuni giornalisti freelance, alcuni blogger indipendenti che volevano denunciare quello che stava succedendo già da due anni a questa parte rispetto a queste banche, erano stati silenziati o comunque avevano avuto poca rilevanza e poca visibilità. In realtà queste denunce rispetto ad affari, a giri loschi legati a finanziari, a banche, ma anche a fondazioni, a società partecipate, praticamente venivano coinvolti quasi tutti quelli facenti parte questo governo Renzi appena insediato, e anche sottosegretari, collegati, amici degli amici. In realtà, appunto, questa fitta trama di interessi era stata già denunciata, adesso è uscito questo primo bubone. Bisognerà vedere se poi anche in futuro succederanno altre cose altrettanto gravi. È chiaro che qua non stiamo a difendere gente che va a speculare o a investire sapendo i rischi che ci sono nella borsa, il gioco della borsa. E vi ricordo e vi lancio questo piccolo sassolino: andatevi a cercare una canzone meravigliosa di Lucio Dalla degli anni 70, del periodo veramente più creativo di Dalla, che è dedicata interamente appunto al gioco della borsa. Ecco, non siamo in questo caso, sono veramente piccoli risparmiatori, gente che fa parte, diciamo, in parte della piccola borghesia, ma molti erano anche operai che avevano lavorato 30-40 anni, che avevano messo da parte la liquidazione, qualche soldo investito lì, è andato tutto in fumo. Dunque una situazione gravissima. E qua nessuno sembra voglia intervenire per salvare questi soggetti. Chiaramente in tutto questo casino che ha attraversato soprattutto la città di Arezzo, che è centrale rispetto alla Banca dell'Etruria, quelli che sono subito calati come degli avvoltoi ovviamente sono fasci leghisti e tutto ciò che sta attorniando questo bel panorama inquietante, che si aggancia oltretutto alla Le Pen, che ha appena vinto il primo turno in molte situazioni regionali, in molte realtà regionali della Francia. Ecco, invece ci dovrebbero essere ben altri soggetti. Il movimento un po' ha anche risposto rispetto a quello che è successo rispetto a questi crack bancari, ma troppo poco. Anche su questo purtroppo ci sono degli scollamenti, e le realtà di Compagni, in realtà, che dovrebbero essere proprio lì sul piano popolare, intervenire a denunciare, purtroppo latitano per tanti motivi. Noi un piccolo accenno lo dovevamo fare rispetto a questa situazione che sta colpendo moltissime persone, che adesso viene ovviamente portata alla luce del sole, anche perché fa notizia. un pensionato oltretutto si è anche suicidato, una cosa abbastanza inquietante, ma probabilmente tra qualche giorno verrà insabbiata e i vari soggetti del governo, in primis il ministro Boschi, che aveva il padre vicepresidente proprio negli anni del dissesto totale, sembra insomma un po' defilarsi, ma comunque nessuno va giù duro rispetto anche alla non presa di una posizione pubblica anche di molti esponenti governativi. E queste belle banche che continuano a veramente rubare sulla pelle delle classi più povere, della gente più ingenua, e questo continua a esserci, ma noi ovviamente poi condanniamo piccoli episodi di furti, taccheggi e varie cose, indicandoli come chissà mai reati gravissimi. Si prende una mela, si prende un biscotto, in realtà questa gente va a rubare miliardi sulla pelle, ma distrugge soprattutto la vita, la convivenza delle persone, la sopravvivenza delle stesse persone. E noi, stando proprio dentro queste pulsazioni inquietanti delle banche e di tutti gli istituti finanziari, di quello che viene definito poi il capitalismo finanziario degli anni zero, forse degli anni 10 a questo punto, abbiamo dedicato la puntata di stasera proprio con il titolo Pulsazioni. Pulsazioni perché? Perché sentiremo suoni, progetti che si muovono tra l'ambient, il techno ambient, il dubstep e anche in alcuni momenti accenni di noise, lo troveremo soprattutto in un autore, dentro appunto un'idea di pulsazione che ovviamente fa al pari con anche l'elemento più squisitamente dance, seppur elaborato, raffinato e particolare, in alcuni casi anche estremamente diretto. Stasera vogliamo essere un po' più diciamo comunicativi, più semplici al primo ascolto, seppur sempre abbastanza particolari come siamo noi di 451. E apriamo dentro questo discorso di pulsazioni con un artista che in realtà si diciamo vuole definire a livello musicale come Signer, ma in realtà si tratta del personaggio Bevan Smith, che in realtà è un musicista neozelandese che si affaccia diciamo sulla scena musicale elettronica alla fine degli anni 90, inizio anni 0. Può essere una sorta di incontro fra un'elettronica sperimentale ma anche ritmata, reduce forse dal periodo post rock anni 90 come Sifil, ma mischiata a un aspetto ambient techno e anche dub in alcuni momenti, richiamando certe linee, certe ritmiche, certe strutture dei Basic Channel o di Gas, ad esempio, come progetti musicali più conosciuti. Signer, che appunto nell'inizio degli anni zero inizia la sua produzione discografica, il primo disco, e proprio andremo a pescare questo, è un disco del 2000, Giving It Up to Feel Affected, che è proprio il disco di esordio ufficiale di Signer, che continua a produrre anche fino all'ultimo disco uscito nel 2014. Gli ultimi dischi sono meno brillanti, più interessanti sicuramente si muovono nel primo periodo tra il 2000 e il 2006, e ascolteremo appunto una faccia, un elemento delle pulsazioni di stasera più legata appunto all'aspetto techno ambient. Caliamoci subito in Signer, iniziamo il percorso pulsazioni. Mixerò molte cose, anche perché è una puntata che predilige, insomma, si avvicina a quest'idea di mixaggio fra vari progetti, tra vari brani musicali, si adatta perfettamente, dunque un po' meno di parlato, ho esagerato in questa prima parte di apertura, e ovviamente vi ricordo, prima di partire con una traccia tratta appunto da questo disco uscito nel 2000 di Signer, che se volete ovviamente riascoltare le puntate, avere notizie, informazioni su 451 intersezioni, ma anche su 451 frammenti sonori, soprattutto sul nuovo progetto partito da questa stagione all'interno di 451 frammenti sonori condotto da Max Macchia, cioè Futuri Rumori, questa rubrica, questo contenitore che raccoglie materiali musicali di vari autori di musica sperimentale che hanno già mandato dei materiali qua da noi in radio, Radio Città Fujiko, raccolti e già inseriti, mandati in onda in alcune puntate, soprattutto le due precedenti dello stesso Max Macchia, Slovacchia, dunque ancora aperta questa idea di contenitore collettivo, aperto, diretto, fuori dai canoni classici di trasmissione di materiali sonori per poi mandarli in onda in trasmissione, una cosa che anche 451 Intersezione ovviamente promuove e partecipa a questo progetto. Ricordiamoci dunque il blog 451frammentisonori.noblogs.org. Intanto partiamo con Pulsazioni e con Signer. Buon ascolto. Thank you. E siamo ritornati in diretta dopo aver fatto questo mix abbastanza dentro l'atmosfera techno ambient, partendo da il progetto che abbiamo appunto preparato e annunciato all'inizio della trasmissione, cioè Signer da Giving It Up to Feel Affected, e siamo passati al progetto Versailles Below dall'album Glider del 2009. Due album comunque collegate alla dimensione più strettamente tecno-ambient, Versailles Below, che abbiamo già diverse volte inserito all'interno dello spazio 451, in realtà è Rafael Anton Irisarri, musicista che è cresciuto musicalmente a Seattle e ha costituito il progetto Versailles Below, che appunto è un one man band alla fine degli anni zero, col primo disco proprio Glider, che è stato il disco di apertura del suo progetto musicale, dunque un progetto, un autore piuttosto recente, avendo fatto uscire fino ad ora solo 3 album e alcuni EP, tra cui un ultimo uscito per la Ghost International proprio quest'anno. Abbiamo inserito però l'album di esordio, anche perché secondo il mio parere è il disco più bello di Versailles Below. Poi anche i successivi sono interessanti, rimanendo in questa atmosfera ambientale con la base tecno e la battuta e la pulsazione piuttosto fondante nel lavoro di Versailles Below, che sta dentro perfettamente alla puntata di stasera, che è stata proprio denominata Pulsazioni. E nelle pulsazioni del musicista di Seattle ci spostiamo a delle pulsazioni un po' differenti, perché entriamo più dentro l'universo dubstep, dubstep che in questi anni 451, anche nelle vecchie puntate, nel vecchio contenitore musicale che attraversava non solo questa radio ma anche un'altra radio che non vogliamo assolutamente nominare, non essendoci lasciati con buoni rapporti. E appunto, dicevo, dubstep è un genere musicale che abbiamo colto, anche se un po' in ritardo, come un movimento molto interessante sul piano di un dance comunque sperimentale, seppur diretta, seppur empatica, e ha attraversato molte realtà musicali, molte regioni. In particolare adesso apriamo questo, diciamo, capitolo dentro Pulsazioni di stasera più esclusivamente connesso al dubstep, con un progetto tra i più importanti, Burial, cioè William Emanuel Bevan, musicista cresciuto a Londra. Il dubstep ha attraversato moltissimo la scena inglese e londinese proprio alla metà degli anni zero, tra il 2005 e il 2006. Il suo primo disco proprio omonimo, Burial, uscito per l'Hyperdub nel 2006, è stato oltretutto considerato da gran parte dei critici e da alcuni magazine come uno dei dischi più importanti del 2006 nella scena dance più intelligente e sperimentale. Un dubstep che oltretutto si avvicina e in alcuni momenti diventa puramente dub, ma in altri momenti si sposta anche nell'ambient e anche nella jungle music. E sicuramente un autore importante, anche se poi tra virgolette un po' si è perso, ha portato avanti altri progetti, ha fatto uscire dei singoli dal 2008 in poi, molti singoli, però diciamo che rispetto alle premesse poteva forse, ci si poteva aspettare anche qualcosa di più importante, di più evoluto nel suo progresso musicale. Questo in parte soltanto è avvenuto, e nei primi due dischi sicuramente il meglio è stato dato da William Emanuel Bevan. E ci ascoltiamo dunque il disco da Burial, il disco di esordio con l'Hyperdub del 2006, due tracce connesse di questo bel disco, ed entriamo dunque nell'universo dubstep. Burial. Thank you. rock. Thank you. Schwab. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver mixato il progetto importantissimo dei Burial con un altro progetto inglese, Peverlist, dall'album Roll Will the Punches del 2007, splendido lavoro questo di questa formazione che in realtà anche questa è una one man band. Si tratta di Tom Ford, musicista di Bristol che porta avanti nella scena chiaramente legata al dubstep inglese il suo percorso dal 2009 circa. Abbiamo ascoltato questo lavoro del 2007 come mini disco, ma il primo disco diciamo ufficiale uscito nel 2009 in realtà il disco che abbiamo ascoltato è un mini disco autoprodotto molto molto interessante. È iniziato Peverlist a autoprodursi materiali dal 2006, ha fatto uscire due mini dischi per poi arrivare appunto a questo Roll with the Punches e poi ha fatto uscire nel 2009 il suo primo album Jarvik Mind Straight per la Punch Drunk con un ottimo risultato, il secondo successivo del 2014, dunque abbastanza recente, 12.000 seconds, bello questo mix tra italiano e inglese, ma 12.000 non mi volevo diciamo buttare in un ginepraio, anche se lo so, fidatevi. È uscito questo disco invece per la Magic Pew Dreams, un lavoro sicuramente quello di Peverlist fino adesso molto molto valido, che ha fatto vedere delle ottime, anzi ascoltare più che vedere chiaramente delle ottime cose e rimanendo ovviamente nella scena inglese, andiamo a spostarci a presentare il prossimo autore, il prossimo progetto che rimane ancora dentro il dubstep, formazione che è più ancora più recente degli autori che fino ad ora abbiamo ascoltato e si tratta di Digital Mystics, formazione che ha avuto anche un certo riscontro sia di ascolti che di critica, progetto anch'esso che esce dalla scena inglese, un duo in questo caso, si tratta di due musicisti che poi portano avanti anche diciamo a livello individuale le proprie performance musicali soprattutto dal vivo in DJ set. Si tratta di Mali and Cocky, questi sono i due personaggi che hanno costituito Digital Mystics che dal 2000 credo, adesso vado a controllare perché potrei sbagliarmi, sì è giusto, dal 2004 hanno iniziato a far uscire i primi singoli ed EP per poi uscire con due album nel 2010, Urban Ethnics e Return to Space per la DMZ. Noi invece andiamo a trovare proprio Return to Space, l'album del 2010, che poi la cosa particolare, gli unici due album usciti per il Digital Mystics sono usciti nel 2010, nello stesso anno, poi hanno prodotto soltanto singoli EP, che è un po' una caratteristica che ritroviamo moltissimo nell'ambito del dubstep, proprio fa parte del loro linguaggio, della loro performance diciamo produttiva, che è abbastanza legata appunto a delle dimensioni, a dei luoghi, alle delle session, e dunque si adatta molto di più il loro linguaggio musicale e il loro racconto anche sonoro attraverso un formato come quello dell'EP e chiaramente dei singolo. E adesso a questo punto ricaliamoci dentro, sempre dentro l'atmosfera dubstep con Digital Mystics.